Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Eccoci all'appuntamento del lunedì con notizie, voci, testimonianze dal mondo dei trasporti e della logistica, un comparto in prima linea in questa emergenza e che come altri ne soffre le conseguenze. Lo abbiamo sentito in effetto giorno, proprio in queste ore sta prendendo forma il decreto rilancio. Non è ancora chiaro quali alla fine saranno le misure a sostegno del comparto e se effettivamente saranno contenute in questo decreto oppure in un altro che verrà varato successivamente. Nel frattempo, con la fase 2 e il riavvio delle attività manufatturiere e dell'edilizia, una parte dei servizi di autotrasporto è ripresa, altri invece sono ancora fermi al palo. Pensiamo a tutta la logistica del commercio al dettaglio non di generi alimentari. Oltre al calo dei traffici, sul comparto incombe una grave crisi di liquidità. In queste settimane da parte di molti committenti è arrivata la comunicazione alle aziende che i pagamenti avverranno in forte ritardo, in alcuni casi addirittura 12 mesi. Da tempo le associazioni chiedono norme che garantiscano la certezza dei pagamenti. Per le aziende vuol dire la disponibilità di risorse vitali per poter far viaggiare i mezzi. In questa direzione FIAP, una delle associazioni dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, ha avanzato al governo una serie di proposte concrete. Siamo in linea con Alessandro Peron, direttore di FIAP. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di arrivare alle proposte, inquadriamo la questione in termini chiaramente generali. Succede questo: un'azienda trasporta merci per conto terzi, per operare sostiene dei costi, ma nel frattempo non incassa, nonostante ci siano norme che dovrebbero imporre il pagamento di questi servizi. Peron. I costi diretti dell'autotrasporto fondamentalmente sono costi che si possono raggruppare nel costo del personale, il costo del gasolio, il costo del veicolo e tutti quelli che sono i servizi connessi, di manutenzione e le autostrade. Tutti questi costi vengono pagati mensilmente dal vettore. Faccio un esempio: se io per il mese di gennaio, io entro il 15 di febbraio ho pagato tutti questi costi. Oggi c'è una legge che fondamentalmente già impone dei termini di pagamento, ok, a 60-90 giorni. Comunque a 60 giorni il mio committente, il nostro cliente del nostro trasportatore dovrebbe ricevere il pagamento. Ma stiamo parlando di costi che sono già stati sostenuti dall'impresa 2 mesi prima, per cui l'impresa, per riuscire a gestire queste cose, cosa fa? O usa del circolante proprio o va in banca e si fa anticipare i soldi. Il mancato pagamento di queste fatture, faccio un esempio, della fattura di gennaio a fine marzo dovrebbe essere pagato e il cliente non lo paga, vuol dire che oltre il 15 del mese successivo, oltre ai costi del mese di marzo, si trova anche di dover rimborsare la banca dei soldi anticipati. Ecco perché è un problema importantissimo questo, che va affrontato in maniera molto accurata e seria. Chiarissimo, ora mi pare di capire, voi proponete che tutto questo avvenga per effetto di una serie di automatismi che dovrebbero garantire appunto i tempi di pagamento. Cioè, quello che oggi è il problema che manca è che la legge attuale sui tempi di pagamento c'è e ha delle sanzioni che sono ben definite. Il problema è che, mancando A, chi fa i controlli, e B, un automatismo che la metta in azione, in questo momento, solo nel caso in cui il vettore denunci che non gli è stata pagata la fattura, allora viene sanzionato il committente. Si immagini se un vettore che già ha delle fatture pagate in ritardo debba anche denunciare il proprio cliente, così perde anche il cliente. Allora noi avevamo proposto alcune idee che potevano aiutare a creare questi automatismi. Faccio un esempio: una deroga all'articolo 66 della direttiva europea del 2006-112, che permetterebbe al vettore di posticipare o di sospendere il pagamento dell'IVA, delle tasse, delle fatture che non gli sono state pagate. Oppure avevamo anche proposto la possibilità, per esempio in questo momento, anche di incentivare i committenti invece che sono virtuosi e che pagano regolarmente a 60 giorni, magari con un credito d'imposta. Avevamo anche proposto che fosse lo stesso albo, al momento magari del pagamento delle quote, di chiedere una dichiarazione da parte dei nostri autotrasportatori che dichiarassero quante sono le fatture non pagate regolarmente. Poi naturalmente sarà l'albo a denunciare, diciamo, agli organi competenti e fare gli eventuali controlli. Alessandro Peron, direttore di FIAP, grazie e buona giornata. Grazie mille, salve. Con la fase 2, la ripartenza delle attività manufatturiere, come dicevo, sono ripresi molti servizi di autotrasporto, sia a livello nazionale che internazionale. Anita denuncia che al Brennero, in coincidenza con l'aumento del traffico, l'Austria ha subito intensificato i controlli e non rispettato le raccomandazioni comunitarie sui corridoi verdi che prevedono il passaggio dei tir entro 15 minuti. Per il presidente Thomas Baumgartner le attese sono anche di ore con code e un aggravio di costi. Di qui la richiesta di un intervento da parte del nostro governo e di Bruxelles, ma in generale sui provvedimenti restrittivi di Vienna per i mezzi pesanti e sulle altre istanze avanzate dall'autotrasporto sentiamo al nostro microfono direttamente Baumgartner. L'Austria ha messo in atto nei vari anni, come il divieto notturno di transito, l'aumento del pedaggio austriaco dell'autostrada, i vari divieti di sabato, i sistemi di dosaggio e non ultimo anche il divieto settoriale. Per il trasporto nazionale invece bisogna continuare assolutamente a impedire il cabotaggio nazionale dei vettori esteri. Questi sono interventi strutturali a lungo, se non necessaria la categoria. A breve abbiamo già fornito le nostre necessità, esigenze per non far chiudere le nostre aziende in questo periodo per alcuni mesi, almeno abbattere le accise sui carburanti oppure fare un ristorno dei pedaggi autostradali, ma è una cosa che si dovrebbe fare subito, però mi sembra che sia già nato, è lo sblocco dei fondi di contributi sugli investimenti, che sono soldi che sono già accantonati, che basta una firma del ministro per sbloccare questi fondi, questo darebbe un aiuto alla categoria. Misure urgenti a sostegno del comparto dell'autotrasporto e anche l'appello di Unrae. Il presidente della sezione veicoli industriali, Franco Fenoglio, ha sottolineato che negli ultimi 10 anni i vettori italiani hanno perso il 30% del mercato e ogni anno 1,5 miliardi di fatturato. Per lo Stato significa 105 milioni di entrate fiscali in meno. Abbiamo visto scomparire 35.000 imprese, 135.000 addetti, 13 volte quelli di Alitalia, ha aggiunto Fenoglio. Tra le proposte di Unrae per il rilancio, un aumento del credito d'imposta dal 6 al 12% fino al 2025, l'azzeramento o una riduzione significativa delle tasse alle imprese per 12-24 mesi, la concessione di prestiti a lungo termine senza interessi e maggiori garanzie bancarie alle imprese. Dall'inizio dell'emergenza, il mondo dell'autotrasporto ha dovuto far fronte al fenomeno dei carichi di ritorno a vuoto, quindi con costi complessivi superiori. Cioè tir, per esempio, che partivano dal sud con prodotti dell'agroalimentare, ma poi però non avevano carichi per il viaggio di ritorno dal nord, appunto come conseguenza del fermo della produzione di molte attività. A patire in particolare sono stati gli autotrasportatori siciliani. Pino Bulla, vicepresidente di Assotir, buongiorno. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Allora, proprio verso la fine della fase 1 è successo qualcosa di particolare che ha riguardato i trasporti dal mercato di Vittoria, che, lo ricordiamo, è il mercato ortofrutticolo più importante di tutta l'isola. Bulla. Padroncino, ma anche la media impresa che fa questo servizio, che fece questo servizio, si è rivolto alle società di navigazione, si è rivolto al Ministero dei Trasporti, si è rivolto anche alla committenza, chiedendo qualche piccolo ingramento alla committenza per cercare di parare il colpo dei costi che erano in eccesso. Alle società di navigazione è stato chiesto un occhio di riguardo proprio perché i veicoli non scendevano carichi ma scendevano vuoti. Tutto è andato a vuoto per il misero incremento da parte del committente del 20%, in termini di, parliamo di un corrispettivo di 300 euro, non di più, ma servivano tanto all'autotrasporto proprio per portare quantomeno i costi a pari. Nonostante questo quindi veto, l'autotrasportatore non si è arreso, ha capito la situazione, l'emergenza che si è vissuta e che si continua a vivere ancora oggi, facendo il trasporto e tornando vuoto. I nostri concittadini italiani non hanno avuto problemi di approvvigionamento sia nei mercati sia nei supermercati, però l'autotrasporto ne è uscito e ancora oggi ne risente dei dolori e del sacrificio commesso. Fase 2, come stanno andando le cose per gli autotrasportatori siciliani? Si sta riprendendo in maniera lenta, ma perché? Perché non è che con la fase 2, sì, ci sono le aperture delle industrie, ma è anche vero che le regole da rispettare, soprattutto per il personale viaggiante, sono notevoli. E nonostante questo, il personale viaggiante non apre bocca, accetta la situazione e sembra di essere tornati 60 anni indietro, quando c'erano i pionieri siciliani che andavano a fare trasporti e portavano le merci, soprattutto il ferro da Brescia, in Sicilia, però lì impiegavano una ventina di giorni come minimo e si attrezzavano portando da casa il cibo e quant'altro. Ecco, sembra di essere tornati 60 anni indietro. Quindi spendere una parola a favore del personale viaggiante del sistema trasporti mi sembra che sia doveroso. Ecco. Pino Bulla, vicepresidente di Assotir, grazie e buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Dalle 22 di domani, alla stessa ora di mercoledì, sulle autostrade, distributori di carburante chiusi per la serrata proclamata da FIGICA, CISL e FIGIS, ANISA, Confcommercio. Le due organizzazioni denunciano l'impossibilità per i gestori di continuare a sostenere costi ormai troppo elevati, dopo che la gelata del traffico per il lockdown ha compresso i ricavi con le vendite crollate in media del 92%. Come già accaduto ieri, anche domenica prossima, sulle strade extraurbane il divieto di circolazione dei tir sarà sospeso. A firmare la terza proroga dall'inizio dell'emergenza è stata la ministra Paola De Micheli. Termina qui oggi hashtag Autotrasporti. Con questo programma noi ci risentiamo lunedì alle 13.45. Ricordo nel frattempo l'appuntamento con Massimo De Donato in onda il sabato alle 13.15 con Container. Grazie per l'attenzione. Ora l'aggiornamento con le notizie del GR delle 14 da Andrea Ferro. Una buona giornata. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.